This evening, to continue our exposition of the Buddha's doctrine, questa sera per continuare la nostra esposizione della dottrina del Buddha, we need to see how this dependence origination manifests as karma. Dobbiamo vedere come questa originazione interdipendente o dipendente si manifesta come karma. And what the Buddha means by the karma which is to do with the process of our liberation. E quello che intende il Buddha è il karma che ha a che vedere con il nostro processo di liberazione. The first thing is to understand how the Buddha saw how things happened. La prima cosa che occorre fare è capire come il Buddha vedeva l'accadere delle cose, cioè come le cose accadono. And this is contained in the law of Iddhapachyata. E questo è contenuto nella legge di Iddhapachyata. Iddhapachyata. Iddhapachyata. Which means the law of this and that. Che significa tradotto la legge di questo e quello. And to put it simply, as the Buddha does. Okay. Sì. Si permette in maniera semplice, così come fa il Buddha. Because that happened in the past, this happens now. Poiché quello è capitato nel passato, questo capita adesso. And because that didn't happen in the past, this doesn't happen now. E poiché quello non è capitato nel passato, questo non capita adesso. Hmm. And because this happens now, this happens now. E poiché questo capita ora, questo capita ora. And because this doesn't happen now, this doesn't happen now. E poiché questo non capita ora, questo non capita ora. Now then, the first one, because that happened then, this happens now, is what we would normally understand as causality. Quindi la prima di queste frasi, diciamo, poiché quello è successo, allora questo succede adesso, rientra in quello che noi considereremo la legge della casualità. Mm. Causalità. No, causalità. Yeah. E anche casualità. There is this link between the past and the present and presumed future is a movement of events, one affecting the other. Quindi questo collegamento tra ciò che è successo nel passato e il presente e si suppone quello che succederà nel futuro è considerato come una serie di eventi. Mm. Now, this presents us with a problem. Quindi questo ci presenta un problema. If the universe was based on that, it would be difficult to see how creativity could arise. Se l'universo fosse basato su questo, sarebbe difficile capire come potrebbe esistere la creatività. One would presume a sort of repetitive universe. Perché uno supporrebbe che ci fosse un universo ripetitivo. And of course we see repetition. Ovviamente noi la vediamo questa ripetizione. Ah, winter, spring, summer, autumn, winter, spring, summer. Yeah. L'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, primavera, l'estate, l'autunno. And from a moral point of view, it takes us into the area of fate. E da un punto di vista morale ci porta nel campo del fato. Mm. So because this happens now because that happened in the past means that I have no control over my present situation nor the future. Quindi se questo capita per a causa di qualcosa che è successo nel passato, allora io non ho nessun controllo né sul presente né sul futuro. This of course was expressed in the Christian tradition as predestination. Questo nella tradizione cristiana veniva espresso con il termine di predestinazione. Which was expounded mainly by Calvin in Switzerland. E questa fu la teoria, una teoria spiegata prevalentemente da Calvino in Svizzera. Mm. And of course informed the religion of Scotland. Informed. The religion of Scotland. Ha informato la religione della Scozia. Mm. In his case, of course, because God knew everything that was going to happen, he knew whether you were going to be saved or not. In questo caso, poiché Dio sapeva già tutto quello che sarebbe successo, allora era in grado di sapere se tu saresti stato salvato oppure no. So fate puts us into a position of impotence. Mm-hmm. Il fatto quindi ci mette in questa posizione di impotenza. Mm. Much in the same way as people might mistake the power of stars. Allo stesso modo come le persone potrebbero fraintendere o capire male il potere delle stelle. One could understand in a holographic universe that things mirror other things. Uno potrebbe intendere che in un universo di tipo olografico ci sono delle cose che rispecchiano altre cose. Mm. Jung had, oh no. So, but then, excuse me, but then to say that the stars rule us is a step too far. Ma da qui a dire che le stelle ci governano, beh, questo è un passo un po' troppo lungo. In the Buddha's time, there were people who believed in that sort of philosophy. Ai tempi del Buddha c'erano persone che credevano a questo tipo di filosofia. Mm. One of the teachers said, if you go down one side of the Ganges, creating great acts of mercy and compassion, and up the other side with mayhem, rapine and war, it made no difference whatsoever. C'era una, filosofo, una persona insomma, che predicava il fatto che se andavi giù lungo il lato destro del Gange facendo azioni benevole, generose, eccetera, eccetera, poi tornavi dall'altro lato del Gange uccidendo, ammazzando, rapinando, non avrebbe fatto nessuna differenza. No. Now, if we take the other causality of immediacy. Adesso prendiamo l'altra causalità, quella dell'immediatezza. Of immediacy. What we see here is that there doesn't seem to be any order. Quello che vediamo qui è che non sembra esserci alcun ordine. Mm. So one would presume if things happen haphazardly in the present moment, we would live in a chaotic universe. Quindi uno può pensare che se le cose succedessero così per caso nel momento presente, allora noi vivremmo in un universo caotico. Mm. And this leads us morally into a similar position. E questo moralmente ci porta in una posizione simile. Because if you do something good now, well, it means nothing in the future because there's no way of telling that it's going to have an effect. Allora, vorrebbe dire che se facciamo qualcosa di buono adesso, questo non è detto che ci porti poi un beneficio nel futuro, perché non c'è nessun modo per essere sicuri che l'azione di oggi avrà un effetto. Mm. If we can marry these two views together, then we have the Buddha's understanding of how things happen in the universe. Se riusciamo a sposare questi due modi di vedere, metterle insieme, allora avremo un'idea di come il Buddha vedeva che le cose accadono nell'universo. Mm. For instance, all of us arrived here on Friday from very different karmic lines. Per esempio, tutti noi siamo arrivati qui venerdì scorso, ognuno da una diversa linea karmica. Mm. Hardly any of you knew anybody else. Così nessuno di voi conosceva nessun altro. And you've all come with your particular reasons. E ognuno di voi è venuto con i propri particolari motivi, le proprie ragioni. Even now. Io stesso. Yeah. So, having arrived here, we have created this course. E quindi essendo giunti qui, noi abbiamo creato questo corso. Huh. In the same way that, you know, given certain things in society, certain movements within society, allo stesso modo, secondo quale, creando certe cose nella società, certi movimenti all'interno della società, suddenly we have a First World War. Improvvisamente abbiamo una prima guerra mondiale. Which seems to have been caused by misunderstandings between diplomats. E sembra essere stata causata da delle incomprensioni tra diplomatici. So, we live therefore in an uncertain world. Viviamo pertanto in un mondo incerto. And this comes home to us very strongly when we do not know the hour or the place of our death. E questo ci arriva in maniera molto, questo messaggio ci arriva in maniera molto forte quando noi ci rendiamo conto di non sapere né il momento né il luogo della nostra morte. Mm. Frightening. Pauroso. So, that is the law of this and that. Questa è la legge di del questo e quello. Questo e quello. Now, sì. So if we just keep that in our minds as an underlying understanding of how things happen, anything happens in the universe. Quindi teniamo questo come base, come dire, come ragionamento sottostante riguardo a tutto ciò che accade nell'universo, come le cose accadono nell'universo. Mm. So now we move into the second level, which is the actions that we perform. Adesso quindi arriviamo al secondo livello che riguarda le azioni che noi eseguiamo. And the fact that things happen. E il fatto che le cose accadono. Ah. So here we come across the five laws, niyama. How do you say that? Oh, here we are. Excuse me. Words going up my head. I know the Pali, but I can't translate it. They're the five laws that govern the. Cinque leggi in Pali la parola niyama. Yeah, actually it is, it just translates as the five laws of, I don't know what you'd say, the natural order. Sì, quindi tradotto proprio come leggi dell'ordine naturale. So now these mirror our own ways of looking at things. E quindi queste rispecchiano i nostri modi di vedere le cose. So the first one is the law of Uttu, which means heat. Il primo è la legge di Uttu, che significa calore. Heat or energy, you see. O anche energia. Remember that for the Brahmins of the time, the great god was Agni. E per i Brahmini del tempo la massima divinità, il Dio, era Agni. And Agni was the god of fire, the god of energy, you see. E Agni era il Dio dell'energia, del fuoco. Hmm. Now, this corresponds to what we would call our basic sciences. So, you know, physics, chemistry. E questo corrisponderebbe a alle nostre scienze di base, cioè la fisica, la chimica. Now, the Buddha points out, and it fixes, and it of course works well with our understanding, that these laws are independent of human beings. Are independent? Yeah, of human beings. Yeah. Cioè, il Buddha spiega che queste leggi sono indipendenti dagli esseri umani. Mm, so, for instance, when the great tsunami hit the coast of Sri Lanka, that was basically a geological happening. Quando lo tsunami ha colpito le coste dello Sri Lanka, beh, quello era un accadimento geologico. Hmm. Now, those people brought up in Buddhism would have two reasons for this happening. Quindi le persone che crescono in un ambiente buddista darebbero due motivazioni diverse per ciò che è accaduto. Hmm. The first one would be the understanding of anicca, impermanence. La prima sarebbe la comprensione di anicca, cioè l'impermanenza. And it would seem that this basic understanding about life, that one isn't in control, that it is arising and passing away, really stemmed the later problems of trauma. E pare che questa idea degli anicca, dell'impermanenza, del fatto di non essere in controllo, che le cose sorgono e passano, ha dato vita poi a affermato quindi la teoria del trauma. Yeah, the usual problems that Westerners have with post-traumatic stress and all that stuff. E quindi questo riguarda i problemi che hanno la maggior parte degli occidentali con lo stress post-traumatico e via di seguito. Because there's no mystery about it. There's no great confusion about it. This is the way it is. Perché in un certo senso non c'è un mistero, non c'è nulla da capire. Le cose stanno così e basta. But on the other hand, they would have had a sort of understanding of karma whereby they would have perhaps felt that they deserved it. Però poi ci sarebbe stato un secondo modo di vedere le cose che è più legato al karma, e in un certo senso avrebbero pensato forse se lo meritavano. And there is unfortunately support for that, especially in the commentaries. E c'è un po' di sostegno a questa teoria, soprattutto nei commentari. Some of you, I'm sure, have heard me tell the tale of the ship that stopped at sea. Qualcuno di voi forse mi ha già sentito raccontare la storia della la nave che si è fermata in mare. Even though the wind was blowing. Anche se il vento stava soffiando. So the confused captain, very very fortunately, was carrying a group of monks. Il capitano, per sua fortuna, stava trasportando un gruppo di monaci. And therefore approached them to find out what the cause might be. E allora si avvicinò a loro per capire quale fosse il motivo. They went into a deep meditation. E sono entrati in una profonda meditazione. And on arising from that deep meditation, determined that it was his wife who was at fault. Poi usciti da questa profonda meditazione, hanno scoperto che la colpa era della moglie, il capitano. In the past life, it seems, she had drowned many kittens. Nella sua vita passata pare che avesse annegato molti gattini. And the only way to get the ship moving was to throw her overboard. She was on board. L'unico modo per far andare avanti questa barca, evidentemente a vela, quindi riprendere il suo viaggio, era di buttare a mare la moglie. Dutifully, he did throw his wife overboard, and the ship moved on. E quindi lui ha obbedito e ha buttato in mare la moglie e la nave, la barca, quella che ha continuato il suo percorso. So, unfortunately, the commentaries, etc., are full of these sorts of stories. E quindi, sfortunatamente, i commentari sono pieni di questo tipo di storia. And we cannot say that when things happen to us there is not some connection with us. Quindi non è che possiamo dire che quando ci succede qualcosa non ci sia un certo collegamento con noi stessi. But it would be wrong to think of it as personal karma, you see. Ma non sarebbe giusto pensarlo come a un karma personale. For instance, I met a man on the bus one day, and all his face had been injured. Per esempio, ho incontrato un uomo sull'autobus un giorno e tutto il suo viso era malformato, è stato danneggiato. Was injured, yeah. Sì, era ferito. So I, you know, he was a fairly elderly man. So I asked him, you know, what had happened. Era un signore abbastanza anziano, allora io gli chiedi, ma cosa è successo? Cosa ti è successo? He said he was worried about his, I think it was his rent, and he'd stepped out onto the road and a car had hit him. Dice, era preoccupato per il suo affitto, è uscito di strada e è stato investito da una macchina. Why was it that when he stepped out on the road this car should hit him? Perché nel momento in cui è uscito sulla strada questa macchina l'ha colpito? There was a case in Britain where there was a strong wind. C'è stato un caso in Inghilterra in cui c'era del forte vento. And it pushed a wall over. E ha fatto cadere un muro. It missed the mother who was walking with her child. ha mancato, non è caduto su una donna che stava portando il figlio per mano. But it killed the little boy. Ma ha ucciso il bambino. You see? So one can think, oh well, maybe the little boy had done something terrible in his past life. Uno può pensare, beh, forse questo bambino ha fatto qualcosa di terribile nella sua vita passata. You see, so the mind is always looking for some sort of moral justification where there is none. La mente sta sempre cercando una giustificazione morale anche quando non ce n'è una. Ah, this is the way it is. Questo è così com'è. The wind had no hatred towards the little boy. Il vento non aveva nessun odio verso il bambino. Nor was it blown at the wall by some monster who hated little boys. E non è neanche stato soffiato su questo muro da un mostro che odiava i bambini. So we attempt to read into events more than they actually are. Noi cerchiamo di assegnare, diciamo, agli eventi un significato maggiore di quello che hanno, di leggere gli eventi in maniera distorta. And I think it's because we're always trying to make sense of suffering. E io credo che questo sia perché siamo sempre cercando di dare un senso alla sofferenza. And even of beautiful events. Ma e questo vale anche per gli eventi belli. Yeah. Why should your lottery ticket of all the other lottery tickets win 10 million euros? È proprio il tuo biglietto della lotteria tra tutti i biglietti della lotteria deve essere quello che vince 10.000 euro. 10 milioni. 10 milioni, yes, 10 million. So we have that law. The second law is equivalent to our biological laws. It's the law of the seed. E quindi poi c'è la seconda legge, che è quella biologica, e della legge del seme. So now here we have the problem of birth defects, of family illnesses running through to the next generation. Qui abbiamo questo problema dei difetti di una persona che ha dalla nascita, oppure dei problemi che vengono trasferiti da una generazione all'altra, quindi problemi di familiarità, diciamo. So now again, if we think that this is our personal karma, then we get into the problems of, you know, that I deserve to be born blind or deserve to be born deaf and so on and so forth. Quindi se cominciamo a pensare che questo è il mio karma personale, allora avremo pensieri del tipo, è colpa mia se sono nato cieco, è colpa mia se sono nato sordo e via di seguito. But of course, the bodies that we receive are given to us. Ma ovviamente i corpi che noi riceviamo ci sono donati, ci sono dati. We have no power to decide which body we're going to be born into. Noi non abbiamo nessun potere di decidere in quale corpo nasceremo. This is the body we have, for good or for ill. This is it. Questo è il corpo che abbiamo, nel bene o nel male. Now, that doesn't mean to say that once consciousness enters the body, it doesn't also have its effect on the body. Questo non significa che una volta che la coscienza entra nel corpo non abbia il suo effetto sul corpo. So obviously, if we have a psychological problem and we start drinking, then it's going to affect the body. Se abbiamo un problema psicologico e cominciamo a bere, questo influenza il corpo. So, you see, there was when I was at Amrawati Buddhist Monastery, which is just north of London, when I was staying there. Quindi quando stavo ad Amaravati, che è un monastero appena a nord di Londra. There was a young man there who had this genetic disease where basically all his limbs became stiff. And he lost all movement. Allora aveva questa c'era un giovane che aveva una malattia genetica in base alla quale tutti gli arti si rigidivano, quindi era diventato molto, come dire, contratto. And he began when he was 10 years old. E questa malattia era cominciata quando aveva 10 anni. Yeah. Now he was very much at peace with his situation. Lui era in pace con la sua situazione. Mm. And seemingly very accommodated with it. He was actually living in his own flat. E quindi era in qualche modo, come dire, era in pace con se stesso, con la sua malattia. Effettivamente stava vivendo da solo nel suo appartamento. Mm. When this happened to their child, it must have happened before 10. I'm just thinking it must have happened before 10. Because when the parents asked the doctors whether this could happen again, they said it was, you know, a million in one chance. Because he himself had a child, or you say? No, the same parents. Yeah. Sì, e quando questa cosa deve essere successo prima dei 10 anni, perché quando i genitori che sapevano di questa malattia genetica avevano chiesto ai medici, loro gli hanno risposto che poteva capitare in un caso su case, no? In a million. It's impossible. Yeah. Una cosa quasi impossibile che succedesse. Mm, unfortunately, their daughter also developed this disease. Ma sfortunatamente anche la figlia ha avuto questa malattia. Mm. And it seems the report was that she was very embittered and unhappy. Si dice che appunto la figlia era molto, come dire, amareggiata, molto infelice. Mm, infelice. So what we see here is that the same sort of situation, but two very different accommodations. Quindi qui vediamo che ci sono due situazioni simili, queste del fratello e della sorella, però due diversi modi di relazionarsi, accommodation, come sistemarsi nella situazione, insomma, no? Come sì. Prenderla. Sì. Now, so this is the biology. The third one is citta, so it's to do with mind, psychology. Quindi questa era la seconda legge, quella biologica. La terza è ha a che fare con citta, cioè la mente, quindi tutto quello che riguarda la psicologia. And all this we discussed last night. E tutto questo l'abbiamo già discusso ieri. The fourth one is karma. La quarta legge è quella del karma. And the fifth one is all the spiritual laws. E la quinta legge comprende tutte quelle spirituali. So excuse me, these include, of course, the Four Noble Truths, the Eightfold Path, and so on. E queste comprendono le quattro nobili verità, l'ottuplice sentiero, e così via. So now we can come back to this central position about karma. Adesso torniamo quindi a questa posizione centrale del karma. And here you'll see that there's a direct link to the psychology that the Buddha's expounded yesterday. E qui vedrete che c'è un collegamento diretto con la psicologia del Buddha, così come l'abbiamo spiegata ieri. Yes. The Buddha makes a very clear statement. He says, the will is karma. Il Buddha fa un'affermazione molto chiara. Dice, la volontà è karma. Mm. Chetana kamma vandami bhikkhave. See, that's what he said. And yeah, it seems impalpable. And here he's using the word karma in a specific sense of meaning an action. Qui usa la parola karma in uno specifico significato, e cioè azione. Mm. Which is actually the real meaning of the word. E questo è effettivamente il vero significato della parola. The consequence ought to be called vipaka. La conseguenza dovrebbe essere chiamata vipaka. Mm. But common language, karma just means what you deserve. Adesso nel nostro linguaggio comune, karma ha assunto il significato di quello che ti meriti. Ah. So we must keep in mind that we're using karma here to mean just an action. Quindi dobbiamo tenere a mente il significato di karma in questo contesto, che vuol dire una semplice azione. Ah. Now we've been investigating all week this business of intention. Quindi è tutta la settimana che investighiamo su questa idea dell'intenzione. So an intention is a thought flavored with desire. Un'intenzione è un pensiero insaporito, diciamo, con il desiderio. Ah. So I can think coffee, which is nothing, or I can think coffee. Quindi io posso pensare caffè, che non è nulla, oppure caffè. Ah, see? So this caffè, this has something else added. Quindi questo caffè ha qualcosa di aggiunto. Now, because we are now severe meditators, committed to seeing intentions, adesso noi siamo dei seri meditanti e siamo impegnati nel vedere le intenzioni, we stop there, you see. Ci fermiamo lì. Ah, see, we see the desire. E vediamo il desiderio. No karma yet. Non c'è ancora nessun karma. This is vipaka. Perché questo è vipaka. This is the consequence of past action. Questa è la conseguenza di un'azione passata. See, this is coming out of our sankhara, our volitional conditionings. Questo viene fuori dal sankhara, cioè dalle nostre attività volitive. And if we think of these as energies, if we let this energy for coffee go, we are undermining these sankharas. E quindi se noi lo pensiamo in termini di energia, se noi lasciamo che questa energia let it go, sì, che la lasciamo andare verso il caffè, diciamo così, è come se noi stessimo minando alla base questi sankhara. See? The whole of desire is actually being undermined. Quindi tutto il let it go, quindi lo lasciate andare nel senso che non andate per il caffè, no? Quindi vi fermate. Sì. Quindi minate appunto la base questi sankhara, questo discorso del desiderio viene in qualche modo intaccato, compromesso. Desire here, remember, is the wrong desire of seeking happiness in sensual pleasure. Sì, qui per desiderio si intende il desiderio sbagliato, cioè quello di cercare la felicità attraverso il piacere dei sensi. Mm. So now we see this desire and we activate the desire. Quindi noi vediamo il desiderio e poi attiviamo il desiderio. We take something out of potential into the actual. Quindi trasformiamo una cosa che è potenziale in una cosa attuale, attiva. So a train of thought is a mental karmic act. Quindi questo flusso di pensieri è un atto mentale. Sì. And speech is a vocal karmic act. E il linguaggio è un atto karmico vocale. And when I do something, that is a karmic act of action. E quando faccio qualcosa, questo è un atto karmico dell'azione. So these are the three avenues in which these desires manifest. Sono i tre modi attraverso i quali, le tre modalità, le tre vie attraverso i quali queste azioni karmiche si manifestano. So one example that I like to give is about the rule that we have concerning stealing. Un esempio che mi piace dare è quello del riguardo alla regola che abbiamo del non rubare. Now I when I came in here I said to myself, now that's a very good clock. Quando sono entrato, io mi sono detto, beh, questo è un bell'orologio. And there arose in me a desire for this clock. È sorto in me un desiderio per questo orologio. But being a very good meditator, I allowed it to arise and pass away. Essendo un buon meditante, io ho permesso a questo pensiero di sorgere e passare. However, the next time I came in, the desire arose again. Tuttavia, la volta successiva che sono entrato, è sorto di nuovo il desiderio. And this time I was not so attentive to this desire. Questa volta non ero così attento a questo desiderio. And I found my hand moving towards the clock. E ho visto la mano che si spostava verso l'orologio. Yes, in fact, at that point I pulled my hand back. A quel punto io ho ritirato la mano. But I had still broken a rule. Avevo comunque infranto una regola. This is known as a dukkata. Which means a lesser offense. Che significa una pena, non so se dice un peccato, minore, sì. Un'infrazione minore. Sì, un peccatissimo. Peccatissimo. which is absolved upon confession. E questo può essere, uno può avere la soluzione grazie a una confessione. Every half moon we gather together. And you know, we have we you know express these things that we've done wrong. Ogni mezzaluna, si dice. Mezzaluna. Ci si ritrova tutti insieme e confessiamo le cose sbagliate che abbiamo fatto. Actually, these days the monks don't do that. They used to do that in the Buddha's time. Effettivamente, ai giorni nostri i monaci non lo fanno più questa pratica, però ai tempi del Buddha lo facevano. Yeah, we just have a certain dialogue in which we say that we've you know, done many things wrong in so many classes of rules. Abbiamo solo un dialogo in cui diciamo che abbiamo fatto una serie di cose sbagliate in determinate classi di regole. Mm. And then the other monk says, "Do you see what you did?" E l'altro monaco poi ti dice, "Hai visto cosa hai fatto?" And my response is, "Yes, I did." La mia risposta è, "Sì, ho visto." And then he says, "Will you refrain from it in future?" E poi lui mi chiede, "Tu ti asterrai dal compiere queste azioni in futuro?" And I say, "Yes, I will." Sì, lo farò. And he says the same to me. E poi lui dice la stessa cosa, confesso, diciamo, a me. In this way the slate is made clean. In questo modo la tavola è rada, cioè è di nuovo pulita. È pulita. Sì. Now. Di spugna, si dice in italiano. Now, I've overcome this great temptation, but the next time I walk in, I'm afraid it attacks me again. Quindi, tornando all'orologio, adesso ho superato questa grande tentazione, ma ho paura che la prossima volta che entro nella sala mi attaccherà nuovamente. And I don't seem to be able to resist now that I'm in the throes of that temptation. My hand moves and touches the clock. Adesso mi sembra di non riuscire a resistere, quindi presa dalla spinta di questa tentazione, la mia mano si muove e tocca l'orologio. But I quickly bring my hand back as if I touched a firebrand, a hot poker. Di nuovo ritiro la mia mano come se avessi toccato, che ne so, un tizzone ardente. Now this is a garbo, this is a serious offense. Allora questo diventa un, come lo chiamate prima? Serious offense. Un peccato sì. Non è proprio un peccato, sì. Un'infrazione seria. Sì. So this also can be wiped clean on confession. Ma anche questa può essere ripulita grazie alla confessione. However, on the third entry, I am now overcome with desire for this clock. Tuttavia, la terza volta che entro nella sala, io sono completamente, come si dice, sopraffatto da questo desiderio di possedere l'orologio. And there is in me just this little intention to take it. E c'è in me questa piccola intenzione di prenderlo. My hand goes out and I move it one nanometer. Allora, lo tocco e lo sposto un nanometer. Nanometro. Un nanometer. And then my conscience pricks and I pull my hand back. Oh, però mi punge la coscienza e io ritiro la mano. Too late. Troppo tardi. Sì. I've now lost my robes. I'm no longer a monk. Adesso ho perso gli abiti, non sono più un monaco. This was an act of stealing. Che questo è diventato un atto di furto. And I didn't even get the clock. E non ho neanche preso l'orologio. So, in this sort of progress, you can see how we create karma, you see, the act. Quindi in questa progressione riusciamo a vedere come creiamo il karma, l'azione. Yes, and we don't know the consequence of our actions on the outside. E non conosciamo le conseguenze delle nostre azioni al di fuori. Because on the outside, that action goes into these basic this that law. Perché al di fuori questa azione rientra, va a finire in questa legge di base del questo e quello. And so as it goes out into the world, we don't know what the effect will be, and it may very well disappear or it may very well come back to us. We don't know. Quando questa azione in qualche modo viene buttata nel mondo, noi non sappiamo che fine faccia, potrebbe disperdersi oppure potrebbe anche ritornarci in qualche modo, non lo possiamo sapere. That is why great acts of kindness and compassion seem to have very little effect. Ed è per questo che grandi atti di compassione, di gentilezza, sembrano avere poco effetto. Why people get away with murder? Perché le persone la fanno franca anche dopo un omicidio? Why people who do the simplest of mistakes find themselves thrown out of society and put in jail and all sorts of terrible things? Sono persone che anche per un semplice errore che compiono vengono a trovarsi in prigione, per esempio. Why that person who buys one lottery ticket wins 10 million euros? Perché quell'unica persona, quella persona che compra un unico biglietto della lotteria, vince quei 10 milioni di euro. But I think we can say in general, when we do something good out there, goodness comes back to us. Ma possiamo dire in generale che quando facciamo una cosa buona, la buttiamo lì fuori, la bontà ci ritorna. And if we do something evil, evil returns. E se facciamo qualcosa di malvagio, ci ritorna sì. Qualcosa di malvagio. So, for instance, there was a charity in England which sent clothes to a particular group of people in Africa. Per esempio c'era un'associazione di beneficenza in Inghilterra che mandava dei vestiti a una popolazione nell'Africa. Mm. Unfortunately, it began to undermine the trade of tailoring. Sfortunatamente ha cominciato a intaccare il commercio della sartoria. Mm. And this had an effect on the local economy that it began to get poorer. E questo ha avuto un effetto sull'economia locale che è diventata sempre più povera. Yeah. When this was reported back to the charity, they called their clothes back. Quando questo poi fu riferito alla questa associazione di beneficenza, loro hanno ripreso ovviamente tutti i vestiti. You see? So although we might act out of compassion, we don't know, we cannot have the knowledge of the consequence of our good actions, you see. Quindi vedete che anche se noi agiamo spinti da compassione, non possiamo sapere quale sarà l'effetto delle nostre azioni. Even the Buddha, you see, he makes a rule and then he discovers there's a consequence that he had not reckoned on and he has to tag a clause onto the rule. Anche il Buddha stesso, lui per esempio stabilisce una regola e non prevede che possa avere una determinata conseguenza, quindi poi è costretto a fare un'aggiunta, una coda alla regola per aggiustare le cose. So for instance, there was a monk who used his extra, his supernormal powers to get food. Per esempio c'era un monaco che usava i suoi poteri sovrannaturali per ottenere del cibo. And so for this and for other reasons he made a rule that nobody could talk about their attainments. E quindi per via di questo e anche per altri motivi ha messo la regola che nessuno poteva parlare dei propri realizzazioni. Mm. So eventually the monks went to the Buddha and said, well, how do we know whether somebody is liberated or not? Allora i monaci a un certo punto sono andati dal Buddha e gli hanno detto, ma noi come facciamo a sapere se una persona è effettivamente un realizzato oppure no? So he made a clause, only if it were untrue. You couldn't only if you were only you couldn't talk about your attainments. If you were boasting about it. If you were boasting about it. Yes, you couldn't talk about your attainments if they were exaggerated. Allora ha messo poi una clausola, cioè che non si poteva parlare delle proprie realizzazioni se uno le esagerava. Because there would be some other motivation there for talking about your attainments. Perché lì ci sarebbe stata questa motivazione aggiunta del voler parlare delle proprie realizzazioni. Mm. But it was still a major rule to say you had attained something which you had not attained. Però rimaneva questa regola importante che vietava di come dire, di vantarsi di aver avuto delle realizzazioni quando non era vero. Mm. And so this also a monk or nun can lose their robes. E anche per questo motivo un monaco o una monaca può perdere gli abiti. Yes. Si dice il suo stato di monaco, essere smonacato. Sì. So now, what is the karma? See, when the Buddha says chetana is karma, what is the actual karma he's pointing to, which is necessary to understand for the process of liberation? Quindi qual è, a quale karma si riferisce il Buddha quando dice chetana è karma? Qual è quel karma che è necessario conoscere per comprendere il processo della liberazione? So here we have to return to dependent origination. Qui dobbiamo tornare alla originazione dipendente. Every time we make an act of will and do something, it has an effect in the world, but it also has an effect inwardly. Quindi ogni volta che noi facciamo un atto di volontà, beh, questo ha un effetto nel mondo, ma ha anche un effetto dentro di noi. And just as we don't know the effect of an act of will going outwards, we don't know the effect of an act of will inward. Così come non sappiamo gli effetti di un atto di volontà che va verso l'esterno, non conosciamo neanche gli effetti che ha all'interno di noi. But one thing we can be sure of in this case, ma c'è una cosa di cui possiamo essere sicuri in questo caso, that when we do something which is wholesome, it will have a wholesome effect upon our minds. Che quando facciamo qualcosa di salutare avrà un effetto salutare sulla nostra mente. And in the opposite, to do something unwholesome, it will have an unwholesome effect on the mind. E allo stesso modo, se facciamo qualcosa di non salutare, avrà un effetto non salutare sulla mente. So by constantly exercising wrong intentions through our thoughts and our speech and our actions, we're building up a malevolence within our own hearts. Quindi continuando a produrre con delle cattive intenzioni attraverso la parola, il pensiero e l'azione, è come se noi creassimo uno stato continuo di malevolenza nel nostro cuore. And in the same way, if we empower what is good, we're building up the good heart. Se invece noi stiamo potenziando ciò che è buono, allora noi stiamo sviluppando il buon cuore. Through this process of letting go of unwholesome intentions and exercising good intentions, you see, we create this good heart, we create this beautiful mind. Quindi attraverso questo processo di lasciare andare le intenzioni non salutari e potenziando invece quelle salutari, noi creiamo questa meravigliosa mente, questa mente meravigliosa. So now let me link this with consciousness. Adesso farò un collegamento tra questo che ho detto e la coscienza. Now, I don't know whether I've said this during this week, but the ancients had a very different idea of the world than we had. Non so I think I said già that. Detto questa settimana, ma gli antichi avevano un altro modo di vedere il mondo rispetto a noi. So I think I have said it. So remember, the world is consciousness. There is no separation between the world and consciousness. Quindi ricordate che il mondo è coscienza, non c'è nessuna separazione tra il mondo e la coscienza. Right. So here of course we're talking about how we actually experience the world. Quindi qui noi stiamo parlando di come noi effettivamente facciamo esperienza del mondo. It doesn't negate the fact that there are other worlds that belong to other minds. Quindi non stiamo negando il fatto che possano esistere degli altri mondi legati ad altre menti. Nor does it take away the fact that the universe would live very well without human beings and their consciousness. Non neghiamo neanche il fatto che l'universo potrebbe vivere altrettanto bene senza gli umani e le loro coscienze. But once you begin to contemplate the idea that the world you're living in is now being manufactured entirely by you. Ma una volta che cominciamo a comprendere che il mondo in cui viviamo è interamente costruito da noi stessi, the way we're actually experiencing it now, dal modo in cui noi lo stiamo effettivamente sperimentando adesso, now, this moment, how are we experiencing it? Quindi adesso, in questo momento, com'è che lo stiamo sperimentando? If there is suffering in this world now, I've caused it. Quindi se c'è sofferenza in questo mondo adesso, io l'ho causata. This is because of unwholesome past actions. E questo a causa di intenzioni passate non salutari. And if this world I'm living in now, at this present moment, is pleasant and delightful, this is also produced by my past actions. E se invece il mondo in cui io sto vivendo in questo momento, al presente, è un mondo piacevole, bello e positivo, anche questo è dovuto alle mie azioni salutari passate. So what the Buddha is asking us to do is to take full responsibility for this inner world. Quello che ci chiede il Buddha è di prenderci la piena responsabilità per questo mondo interiore. And in so doing, we begin to stop blaming others for our particular situation. Facendo così, noi smettiamo di dare la colpa agli altri per la nostra situazione. And once we do that, we must necessarily turn inward to cure our own hearts. E facendo così, noi dobbiamo necessariamente volgerci verso l'interno di noi stessi per curare il nostro cuore. So this process of purifying the heart runs concurrent with the process of wisdom. Quindi questo processo del purificare il cuore è contestuale, diciamo, corre parallelo alla saggezza. Remember that the Buddha is always beginning from the position of understanding. Ricordate che il Buddha parte sempre dalla posizione del comprendere. So dependent origination begins with not knowing and ends up with knowing, wisdom. E quindi la catena, diciamo, della originazione dipendente parte da una posizione del non sapere o non conoscere e arriva alla conoscenza o alla saggezza. But from the heart's point of view, remember, it begins from no harm, innocence. Ma dal punto di vista del cuore comincia dal non fare del male, cioè dell'innocenza. And it's because of a mistake that we create all these problems. Ed è a causa di un errore che noi creiamo tutti questi problemi. When we come back on that problem, then we end up with the pure heart. Quando noi ritorniamo su quei problemi, come back in the sense. With to the pure heart. Sì, noi ritorni, è come se ritornassimo al cuore puro. But this pure heart, remember, is now informed. Questo cuore puro, però, a questo punto è informato. And it is informed in such a way that it contains within itself now these illimitable qualities. Quindi è informato nel senso che contiene a questo punto queste qualità illimitate. Love, compassion, joy and equanimity. L'amore, la compassione, la gioia e l'equanimità. Now, the final statement. Adesso giungiamo all'ultima affermazione. It's because of this mistake at the beginning that the whole of psychology and Buddhism is an ethical problem. Ed è proprio per questo errore di fondo iniziale che tutta la psicologia buddista si riconduce ad un problema etico. So in the West we've made our psychological problems medical. Qui in Occidente abbiamo fatto in modo che i problemi psicologici siano problemi della medicina. Yeah. And there's a wisdom in that. C'è una saggezza in questo. Yeah. And in fact the Buddha, remember, puts his four noble truths out, displays his four noble truths in the same way as doctors in those times. Ricordate che il Buddha spiega le quattro nobili verità così come utilizzando lo stesso linguaggio che utilizzerebbe un medico a quei tempi, il metodo che userebbe un medico a quei tempi. So the illness is suffering. Quindi la malattia è la sofferenza. The cause of it is desire. La causa è il desiderio. Yeah. The prognosis, the end point, is absolute cure. La prognosi è la cura assoluta. And the way you cure it is the Eightfold Path. È il modo per cui si può curare è lo stuttice sentiero. So there's nothing wrong with seeing mental illnesses, etc., etc., as medical problems. Quindi non c'è nulla di male nel vedere le malattie mentali come problemi medici. But from the Buddha's point of view, it all began with a mistake that has created ethical problems. Ma dal punto di vista buddista, tutto è nato da un problema che ha creato da un errore che ha creato dei problemi etici. Because once we have got the wrong relationship to life, greed, aversion and delusion arise naturally. Perché una volta che noi abbiamo una relazione sbagliata con la vita, allora naturalmente sorgono l'avidità, l'odio e l'illusione. And from there all the suffering of humankind. E da lì tutta la sofferenza dell'umanità. Even so, there is hope. Ma anche così, ciò detto, c'è speranza. I can only hope. My words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. By taking full responsibility of the worlds in which we live. Prendendo piena responsabilità dei mondi in cui viviamo. May we seek to purify the heart. Che noi possiamo cercare di purificare il cuore. Grow in wisdom. Crescere in saggezza. And arrive at Nibbana sooner rather than later. E giungere al Nibbana prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu, sadhu.